ma quel cretino di Parenzo, ma cosa mette? No, è vero, ma denunciateli a sta gente qua, tutti e due compari, sono due cretini. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Cruciani, si deve vergognare, siete vergognosi, ma voi state delirando. Volevo dire che la zanzara è uguale a Radio Padania. Che vergogna quell'aula della Camera dei Deputati, caro Parenzo. Good night everybody, eh. Buonasera anche a te, eh. Good night everybody, sembri il nostro amico Vinci. Che vergogna quell'aula della Camera. Vuota. Tante parole, gente che si batte la mano sul petto per l'italiano ucciso dal drone di Obama. Poi, siccome è venerdì, tutti a casa e nessuno a sentire le comunicazioni del ministro degli esteri. Devo dire la verità, io non ho mai capito questa cosa qui, che un secondo, due giorni dopo una tragedia, un evento particolare, c'è il ministro che deve riferire alla Camera. No, io non l'ho mai capito. Adesso tu mi attaccherai dicendo no, è una prassi, quello che vuoi, la forma, la no, democrazia. Ma sono d'accordo anch'io che non serve assolutamente, ecco, a niente. Diciamo la verità, non serve assolutamente questo, a nulla. Su questo non c'è dubbio. Dopodiché l'informativa del ministro alle Camere, chiamala come ti pare, serve per capire che succede. No, non serve a niente. Non serve. Hai detto. No, da un punto di vista pratico. Ma non serve a nulla, non serve a niente. Che non cambia le sorti, ma no? Se è prevista ci devi stare. Se però, è per la morte di. Se è prevista. Non è che scappi e te ne vai. Aula totalmente vuota. No, a me fa impazzire il cinismo del professor Luttuak. L'ho visto ieri. Tra l'altro, secondo il New York Times, Obama sapeva, ma non disse nulla a Renzi. Il cinismo di Luttuak è questo. Cioè, vabbè, un morto, c'è la guerra, un morto. Poi chi fa... Sentiamo Luttuak. Alcuni cooperanti vogliono andare in zone guerra e certe cose succedono. A proposito di cooperanti, io ho una lunghissima lista di posti in Italia dove si può andare a cooperare, dove ci sono terribili situazioni sociali e umane. Però certi vogliono andare lontano in zone di guerra e queste cose succedono. Un po' ha ragione lui, per carità, noi abbiamo una grande tradizione di cooperazione all'estero, e non voglio dire niente, questo ha fatto una scelta, ognuno fa le sue scelte, può andare in Pakistan, eccetera. Ma amico mio, cosa fai in mezzo alle montagne del Pakistan? Del Pakistan, comunque va bene, non voglio dire niente se no sembro cattivo. Però ha ragione il professore, anche quando dice Obama, peccato che è morto qualcuno, è stato gentile. Obama era gentile, è morto qualcuno, lui ha detto è peccato che è morto qualcuno. Questo è un po' duro, diciamo. Mi dispiace molto che è morto qualcuno. Noi facciamo delle tragedie, devo dire la verità, abbiamo un'idea della vita e della morte che è figlia di quello che è successo durante la Seconda Guerra Mondiale, perché insomma era in zona di guerra, ci stanno i bombardieri americani, può succedere che ti trovi in mezzo, adesso no, detto sì, proprio in maniera, detto in maniera franca, è un morto, e lo dico con grandissimo rispetto, ma noi facciamo una tragedia, magari anche una nostra forza questa roba qui, siamo forse una civiltà più, no, che sta più attenta a queste cose, per gli americani un morto alla fine è un morto, cioè non è che cambia molto, insomma non cambia molto, per noi, capito? un cooperante morto sono titoli di giornale pazzeschi, giorni di discussione, Obama sapeva, non lo sapeva, l'ha comunicato al governo, perché questi tre mesi, eccetera, eccetera, eccetera. Zanzara 800 24 00 24. Vorrei ricordare quello che ha detto, perché la cosa può far aprire il classico dibattito con due B e con due T, il dibattito sull'eutanasia. Mauro Corona, scrittore eccetera eccetera, ieri sera alla Zanzara, che cosa ha detto il professor Corona? Ha detto che lui ha già deciso i suoi killer, ha già deciso nel caso in cui è immobilizzato, fermo, non può fare niente, gli prende l'ictus o qualcosa eccetera, chi lo ucciderà, chi lo ucciderà con le pasticche, non so in che modo, ha detto credo con le pasticche, cioè ha già fatto una scrittura privata, non so manco se sia possibile farlo ovviamente, una scrittura privata, si è messo d'accordo con tre amici, insomma uno di voi mi deve ammazzare, io ho il diritto di fare del mio corpo, della mia vita, quello che voglio. Io non vorrei l'accanimento terapeutico, ho anche fatto il mio testamento dal notaio, ma io, a parte che sento quando sto male, io mi sento, ho un corpo come un orologio che mi dice, allora scomparirò in qualche anfato, in qualche foibe, in qualche, senza gesti eclatanti, se, ma non voglio accanimenti. È inutile che Giovanardi mi dica non si può, quando sono terminale devono togliermi via, io non ce la farò più. Allora ho messo chi di dovere per farmi portare in Svizzera o per darmi una pasticca. Chi si può permettere di tenermi in vita? Sarà mia la vita o no? O di questi bigotti, bacchettoni, questi che c'hanno. La vita è mia. Quando uno comincia a perdere 20 kg in un mese e ti dicono ah facciamo degli esami, la PAC, ma è ora di andare. L'ho scritto anche nel Sasso della Corrente, c'è una bella foiba dove mi siederò lì, una cassa di vino e una cassa di Toscani e mi lascio morire lì, esco, piuttosto che vedere sopra di me i familiari o gli amici, poverino, dai che ce la fai, e dico non vedo l'ora che crepi quel battaglio. Allora, ancora Salvini contro Morandi, ancora Salvini contro Morandi, canta che ti passa. All over the world tonight, feet are hitting the ground. Il traffico illegale di migranti, quelli che poi buoni, Gianni Morandi, no, aiutiamo, noi stiamo finanziando i terroristi di Al-Qaeda, quindi Gianni Morandi canta che ti passa. È con noi Domenico Cozzolino, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. Caro Domenico, come stai? Sto bene. Candidato della Lega Sud Ausonia. Ma è vero che tu sei praticamente il papà della candidatura di quella, com'è che si chiama quella ragazza? Greca. La Greca. Ah, o no? Bene, sì, va bene, ma non solo lei. Diciamo che la Lega Sud ho portato un po' 5-6 ragazze, sì, candidate tutte belle come la Greca? Sì, belle ragazze, tutte belle. Dai, ragazze, cioè, più che altro le altre ragazze sono tutte laureate pure, quindi sono tutte laureate, sì. Vabbè, ma questo sai, in Italia si laureano tutti, adesso non voglio dire niente, certo, per certo, carità, certo. Però a differenza, queste ragazze credo che hanno anche la capacità. Hanno anche la capacità. Beh, questo, ma Cozzolino. Sì, Cozzolino, che vuoi dire a Cozzolino? A me dice qualcosa Cozzolino. E poi adesso parleremo un secondo di queste cose qua del passato. Senti, Domenico, voglio dirti una cosa, ma tu sei praticamente quello che procura, tra virgolette, un po' di ragazze a questa a questa Lega Sud Ausonia. No, non c'è niente di male. Cioè, ha detto al reclutamento di belle ragazze, ma non è male come cosa. No. Mai. Semmai, guarda, il documento di ragazze è più o meno valide, capito? No, vabbè, sempre valide, sempre con competenza. Guarda, io non sono Emilio Fede, quindi... Non sei Emilio Fede in che senso? No. Ah, non sei assaggiatore, esatto. Insomma. Esatto, quindi vai tranquillo, non ti preoccupare, io non sono Emilio Fede, quindi solamente che in alcune persone che ho candidato ho visto delle qualità... delle quali... Esatto. Però la bellezza sì. conta, pure la bellezza conta. La guarda, ma la bellezza, sì, la bellezza... Guarda, no, la non bellezza, conta. La bellezza, sì, conta, ti fa dire una marcia in più, però quello che conta per cambiare un qualcosa è la testa. È la testa. Questo è poco ma sicuro. Sì. È la testa. Però, allora, tu hai detto una cosa, non sono Emilio Fede, adesso quello si incazzerà, ovviamente, no? La nostra amica Emilio Fede. Non sei Emilio Fede nel senso che non diciamo, sei quello che porta diciamo le ragazze a qualcuno. Diciamo che le assaggio per conto mio. Le assaggio... Hai perso come il lupo perde il velo, ma il pelo com'è? Ma non il vizio, no? Non il vizio. Sì, dai, sei, sì. sei sempre sul pezzo, comunque, no? Perché no, nel frattempo, che hai fatto? Siamo... Ti sei sposato? Che hai fatto? No, guarda, sono semplicemente fidanzato. Sei fidanzato? Fra poco mi laureo, quindi. Pure? Sì. Ma non mi posso laureare? Ma certo, assolutamente. Ma come, tu, un'altra vita. Hai detto che si lavorano tutti in Italia, non mi posso lavorare io. Ma no? Figurati, ma figuriamoci, da uomini e donne, ex tronista fantastica, no, la laurea, no, tutti. Vabbè, questo qua, guarda, se stai parlando di quando avevo 20 anni. E vabbè, ma guarda che mica ti devi vergognare di aver fatto queste cose. No, per l'amor di Dio, sono esperienze di vita di tutti i giovani. Non bisogna vergognarsi di nulla. Poi a un certo punto. No, non mi sono mai vergognato di quello che ho fatto. Ma che ti sto dicendo solamente una cosa di 10 anni fa della mia vita. Ma forse anche di più di 10 anni fa, credo. No, 10 anni fa. Ce n'ho 27 di anni, quindi. Comunque. Nessuna cosa muore, tutto torna. Una volta ti sei candidato addirittura a sindaco di Bosco Trecase. Sì, esatto, solamente delle ultime una documentazione servita, sì. Che poi dopo, diciamo, una cosa legale più che altro, che poi, sì. Poi senti Cozzolino, voglio chiedere una cosa, sempre nella Lega Sud, poi che cosa sarà sta Lega Sud magari ce lo spieghi, però certo. Ma Berlusconi per te chi è? Berlusconi? Niente, è una persona che ha fatto tanto per l'Italia. Questo. Fatto tanto, eh? Esatto. Ha fatto tanto. Perseguitato un po', o no? Sì, io perseguitato, vabbè, guarda, tutti quelli che stanno sulla crista e quelli che stanno, diciamo, che sono considerati sì. leader, sono perseguitati, quindi automaticamente c'è sempre l'invito di un sacco di persone che sì. il leader è sempre giudicato male, è sempre sì. esatto. Preso di mira dalla magistratura, eccetera, eccetera, eh? Vabbè, queste sono cose diciamo tecniche sono cose, certo. Comunque che a me non mi interessa. Guarda, ti posso dire una cosa, a me non mi interessano nemmeno, perché quello che stiamo puntando adesso è una cosa verso i giovani, verso i giovani, una nuova sì. politica. Non voglio parlare di persone. Comunque, vabbè, ma sempre con Caldoro, diciamo, con Caldoro ti candidi con col centrodestra. Con Caldoro mi tardo, perché comunque abbiamo Caldoro porta, diciamo, anche un nostro programma avanti. Un nostro, sì. Lega Sud Ausonia. Esatto, allora, un attimo solo che c'è il traffico, certo. Poi torno subito. Domenico Cozzolino, un mito. Traffico velochilare. La Zanzara. Caro Parenzo, giustamente ti è venuto in mente Domenico Cozzolino per un motivo, adesso glielo chiederemo. Domenico Cozzolino, però uno può prendere per il culo quanto vuole, eccetera, eccetera, può prendere in giro. Dopodiché si presenta, i voti li deve prendere, perché alla regione bisogna prendere le preferenze. Non c'è dubbio. Bisogna prendere le preferenze. Uno si presenta, se la gente ovviamente, vota. Certo, giusto. Ovviamente c'è tutto un lavoro e tutto, con tutti noi della Lega Sud. Della Lega Sud Ausonia. Esatto. Devi mettere il nome mettere il nome Cozzolino, altrimenti certo. al Consiglio regionale non ce vai, non esatto, ce vai. Perché comunque è un sì. movimento da oltre 20 anni, da oltre 20 anni, sì. Iniziative avanti. Sì. Però Domenico, ti posso chiedere una cosa? Sì, ti posso chiedere una cosa. Allora, tu esatto. Nei giorni scorsi hai detto sì, è vero, quelle foto con Noemi e Letizia furono finte, no? Giusto? Ok, sì. Dai, sì. Confermi, no, questa cosa? Ma guarda, sì, però ti posso dire una cosa, se dobbiamo parlare di Noemi. No, Letizia. Ma non di Noemi Letizia. Del marito. Tra l'altro tu lavori anche adesso, lavori pure col marito adesso, no? Lavori no, col marito. Io lavoro per la mia terra. No, vabbè, ho capito, ma c'è il marito di adesso che lavora con te, è candidato pure lui, se mi sembra. Ma guarda, no, lui non è candidato. Però lavora là con te. Può lavorare, ma con me non lavora, perché io porto gli interessi sulla mia terra, dove abito. Però io voglio capire una cosa, scusami un attimo, perché accettasti di fare quelle foto? il marito vedi che si candida con Forza Italia, ma no con Lega Sud. Con Forza Italia, sì, scusa, vabbè, esatto. Comunque sempre con Candoro. Con Lega Sud siamo un passato. Sì, ma perché accettasti di fare quelle foto? Me lo spieghi perché accettasti di fare quelle foto? Ma guarda, ma dobbiamo parlare. No, è una domanda. Io ho passato di 10 anni. Vabbè, ma che c'entra? È una cosa che ti ha reso famoso, Domenico. Una cosa che bene, ok, io sei reso famoso, ma come ha reso famoso me, ha reso famoso pure altre persone. Certo, mica solo te. È tutto. Ma come mai hai accettato? È un'operazione di marketing, dai. Come mai hai accettato di Come mai hai accettato di fare quelle foto? Un'operazione di marketing ha fatto. Vabbè, dai. Esatto, guarda, ti sei risposto. Come mai hai accettato quelle... No, ti sto... Per fare marketing, è vero, te lo giuro. Cioè, per farti pubblicità? Sì. Ma quanti soldi hai preso da quella cosa? Guarda, adesso non mi ricordo. Ma come non però ti ricordo? Però ti faccio sapere. Ma no, ma sei candidato, Domenico, sei candidato però, devi rispondere a queste cose, altrimenti... Sono le persone che si candidano, devono dire, quanti soldi certo. Sono in passato. Ma no. Che scherzi, guarda che quelli che si candidano, negli altri paesi, anche in Italia, gli vanno a vedere pure le pulci nel sotto sederino. No, ma... No, ma fammi capire, ti ha portato... No, quando dico di ma quando tu dici sì, è vero, marketing... Ma chi è questa persona che sta a fare? Parenzo, si chiama Parenzo, conduce con me. Ciao, Parenzo, ciao. Ciao Cozzoli. No, io ti ho capito perfettamente perché ho studiato il fenomeno. Dimmi se ho ragione, cioè fu una grande operazione di marketing. Tu hai accettato, certo. Non tanto per i soldi che sono circa 30.000 euro, poco di più. No, allora scusa, ho letto male, forse 15.000. Allora scusa, ho letto male, 10.000. Vabbè, no, è meno di 10.000. Allora hai fatto male, figlio mio. Cioè, vabbè, guarda, a livello di business faccio schifo allora. Guarda, meno di 10.000. Guarda, è solo promozione. Dai. Ho capito, d'accordo, però il punto fondamentale è questo. Perché? Un'operazione di immagine, dai. Perché hai accettato? Non ti sei pentito? Bravo, immagine. Ma ti sei pentito di averlo fatto o no? No, non mi sono pentito, perché? A chi serviva all'epoca? La verità, perché mi devo pentire di dire una verità? Qual è il problema? La verità, ma a chi serviva? Devo pentire, allora. All'epoca a chi servì? Tu, ha servito a tutti. È servito a tutti, pure a Berlusconi servì. Ho detto tutti. Tutti. Quindi. Ma chi è che te lo chiese all'inizio? Sono curioso di questa cosa. Chi te lo chiese di fare quella foto? Aspetta, queste cose qui non si possono dire. Sono private, Sono private. Queste sono private. Sono private. Comunque, a parte gli scherzi, comunque tu comunque mi hai citato prima, hai fatto il movimento. Cosa sarà questo movimento della Lega Sud? Sì. Ripeto, è un movimento solamente che porta iniziative nuove al mio paese. Vabbè, ma quello vabbè, d'accordo. Sto facendo ricerca su alcune lagune che c'ha. Lagune, Campania, sì. Come le lagune sono un'altra cosa. Però. Esatto. No, le lagune. Lagune. Vuoi puntualizzarmi, vuoi attaccare anche sulla no. Zona? No! È tutto, scusami. No, ma guarda, per carità. Sono raffreddato pure, dai. No, però vabbè. Io voglio dire questa cosa qua, no? Cioè, Allora, facciamo così, lagune con la C. Con la C, mi raccomando, vabbè. con la C. Okay. No, io lo sapevo, però ti ripeto, siamo in diretta telefonica, quindi non si sente nemmeno bene. Non si sente bene, No. No. Comunque, io ti sento un po' attratto. Quanti soldi? Io sono curioso. Quanti soldi ti ha portato questa roba? Dai, dimmi quanti soldi hai preso, dai. Guarda, i soldi che ti hanno promesso delle cose. Dobbiamo portare i soldi al sud. Perché dobbiamo aggiustare un po' di vabbè, ma quanti soldi hai preso? Che ne so, ti hanno promesso delle cose. Facciamo sta bella cosa finta. Allora, i soldi che ho preso, non risolvi i problemi del sud Italia. Ma ti pare che tu fai una cosa finta e ti baci in maniera finta con una? Perché l'hai fatto? Guarda, stai chiedendo una cosa del genere a me che ho 22 anni, no? Pensa a un ragazzo di 22 anni, lui che dice una cosa del genere, no? Cioè, a 22 anni tu accetti un sacco di cose. Guarda, poi ti posso dire una cosa: ci sono tanti politici, no? Che dovrebbero veramente vergognarsi, no? Adesso si sta attaccando su questa cosa. Che sono candidato, che veramente guarda, vabbè. Veramente Cozzolino. Guarda, voglio portare alcune mie cose. Ciao, ti abbraccio, ciao. Un bacione anche a te. Ciao. Ma non potete iniziare alle 18, che c'è già gran voglia di zanzara. Digital Radio Flash. Ciao, sono Alessio. Ma la Digital Radio è una nuova radio? No, è un sistema nuovo per sentire la radio che ami con una marcia in più. Molte radio trasmettono già in digital, come questa per esempio. Ci puoi ascoltare con un suono perfetto. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. BMW Freeride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta La Zanzara. Ooh, auguro veramente che tu ti possa convertire, perché mi fai tanta pena per la rabbia, per quest'asso. Tu sei uno strumento nelle mani del demonio. Allora, ieri dalle Iene Sgarbi ancora contro Fiorello. Ancora contro Fiorello, non come da noi, ma insomma ha messo il carico da 90 anche alle Iene, Sentite. Vittorio Sgarbi si vergogni per ciò che ha fatto. Non è possibile. Si vergogni. Ma chi sei tu? Lei con quel gesto da gran maleducato ha ferito il povero Fiorello l'altra sera a Costanzo Show. Ah no, quella è una storia senza senso. Ma chi cazzo è sto Fiorello? Ma che vuole da me? Quello non ci ha dormito la notte, ci è rimasto male. Ha scritto su Twitter. Veramente? Beh, si suiciderà forse. Non sarei soddisfatto, insomma, di un suicidio. È una cosa che comunque dà senso a una vita. Non deve rompere i coglioni, Fiorello. Non deve rompere i coglioni. La prossima volta mentre canta, cacco. E tu vuoi dirmi che non hai mai ascoltato una canzone di Fiorello mentre cagavi? Mica stavo a Costanzo Show però. Adesso tu dovrai andare da lui e dire che chieda scusa per questa cretinata che ha scritto chiamandomi maleducato. Lui mi ha offeso, si penta, si scusi, chieda perdono. Non ribalti la questione. Lui è un grandissimo. Peggiora così la sua posizione, ma si rende conto. Peggiorare, un grandissimo. E tu sei un pezzo di merda, e un rotto il culo, e vada, e tua madre una puttana, e tu una faccia di merda. Qui scherzavo ovviamente, qui sì, scherzavo. Sì, capisci dal tono. Eccoci qui, la Zanzara, 800 24 00 24. Andiamo con Alessandra, Alessandra da Milano, anzi no, Nicola da Pistoia, Nicola. Vai Nicola. Buonasera. Dimmi. Ascoltami, io non voglio fare la polemica con... Nicola, non si sente niente, Riccardo da Chieti. Pronto? Dimmi Riccardo. Volevo fare un intervento in merito a quello, l'azione che sta facendo la Presidente della Camera Boldrini. Su che cosa? Sulla scritta Dux dell'Obelisco. Sì, ma è una roba vecchia quella, l'abbiamo parlato 4-5 giorni fa, Riccardo, su. Voglio riparlare. Vabbè, dai, forza. No, che questa signora, perché si può dire signora, non penso che si offenda, no? No, immagino di no. Conoscendo il tipo, comunque, si preoccupa di quella scritta che equivale alla scritta Grippa sul Pantheon. Cioè, una scritta ormai consegnata alla storia. Non si preoccupa invece di scritte... Sì. Cioè di strade, piazze intitolate a Stalin, a Lenin. No, a Stalin non credo che ci sono. No, guarda. Ci sono, vai Stalin su non credo, Stalin. Ci sono, forse a Bologna, c'è internet, le trovi. Beh, insomma, a Bologna c'è Corso Stalin, sì. Ma Corso Stalin è ridicolo, cioè non ha senso. Però insomma, Bologna c'è. Ma è come scrivere Corso Mussolini, ma stai scherzando? Cioè, è una follia. Se non ricordo male c'è Corso Stalin a Bologna. Adesso ma comunque, se ci fosse Corso Stalin sarebbe sbagliato. Ma comunque chi se ne frega, Stalin non è un personaggio consegnato alla storia. Per me andrebbe bene pure via Piazza Benito Mussolini. Ma chi se ne frega? Ma per carità? Come per carità? Ma per carità di Dio. Cioè Mussolini no e Stalin sì. Sai, un conto è... No, ma mica difendo chi... Se esiste... Cioè, per esempio, a Roma hanno negato una strada a Giorgio Almirante. Hanno fatto bene. Va bene, ma ti credo, meno male. Cioè, meno male. Meno male. Ci sono strade intitolate, che ne so, appunto a Stalin. Per te Stalin no, va bene e Almirante voglio, no. Questo lo voglio verificare. E il fatto giusto... Dico, ma tu sei matto, dedicare cioè, una strada... Togliatti sì e Almirante no. Togliatti Stalin, che non lo so complice, di, complice di non so quanti assassini in Russia. Cioè, Togliatti sì... Epurazioni, no, Togliatti, cioè... Togliatti è un eroe, è stato ministro della giustizia. Togliatti sì e Almirante no. Questo ma è il tuo metodo è stato di giudizio. Ministro della giustizia dopo il 48, ma è una roba fondamentale. Va bene, d'accordo. No? Allora, Togliatti va bene. Togliatti ai fascisti. Stalin sì e Almirante no. Ma Stalin non lo difendo per niente. La via, via nel senso di via Almirante, ma detto così, no, ma via nel senso di via. Via Giorgio Almirante, un personaggio no, della no. Via nel senso di vada via, non via. Io la ho capito, via. Ho capito. Riccardo, che dici tu? Non ho capito. No. Riccardo? Ciro da Lodi, vai. Pronto? Ciao Cruciani, buonasera. Dimmi. Volevo dire, solo per dire una cosa, ma perché c'è anche il problema di pensare come mai ci sono le strade dedicate a Togliatti e Almirante no. Dai Cruciani, la smetti. Ma no, ma è una stupidaggine ovviamente, solo che oggi c'è una notizia, mi sembra su un giornale romano, che hanno ieri al Consiglio Comunale di Roma hanno vietato... hanno fatto bene. Ma perché hanno fatto bene? Al Milano è stato un fascistone. Vabbè, ma ho capito, ma ci sono strade intitolate a chiunque in Italia, dai, su, una strada. Sì, perché Togliatti è stato un comunista di quelli veri, però. Come una volta c'era. Vabbè, Ciro, contento tu, che ti devo dire? A me non me ne frega niente delle strade. Però io ho chiamato per un'altra cosa, per dirle che ormai lei assomiglia a Sammy Varin. Io assomiglio a Sammy Varin. No, guardi, è molto distante da me il signor Sammy Varin di Radio Padania, le posso assicurare. Lei è quello che non si indigna mai, che dice che i barconi che partono prima o poi lo sanno a cosa vanno incontro. Beh, certo, è un rischio che si mette nel conto quando tu dici. Solo che loro preferiscono correre questo rischio piuttosto che rimanere nei posti dove stanno. È arrivato, vede che ci arriva anche lei. No, ma guardi che l'ho già detta questa cosa qui, è lei che non l'ha sentita bene. Comunque io sono quello lì che lei una sera ha blobbato Ciro Dall'Oddi che mandava a fanculo il signor Sammy Varin, perché quello è una radio razzista proprio di merda. Sì, quale? Radio Padania, dici? Certamente. E perché l'ascolti allora? No, la mattina non c'è un cazzo da fare, alle 6:20 mi sveglio per andare a lavorare, mi voglio incazzare un po', l'ascolto, lo chiamo e lo mando a fanculo. Tutto qua. Ah, fai così tu, lo chiami e lo mandi a fare in culo, questa è la tua cosa. Perché? Chiami Radio Padania e li mandi a fare in culo. Ma sì, perché non si può sentire, lei sente quelli che chiamano cosa dicono? Sì, ogni tanto sì. Sono da mettere a San Vittore proprio, da chiudere proprio. Ho capito, ma Ciro, però tu contribuisci in questo modo, come dire, alla crescita di Radio Padania. E come vedi contribuisco anche a ascoltare te, che ultimamente non fai altro ma guarda, parlare di centimetri di falso. E mi fai sempre male a quel povero Ciro, parente, me lo fai trattare Ciro, male. Guarda che tra me e il signor Varin c'è una distanza abissale, ma dico. Ma meno male, ci mancherebbe. Per quello che pensiamo, dopodiché alcune cose magari le condivido, come posso condividere qualcosa che dici tu, come posso condividere qualcosa che dico Parenzo. Io non ho paraocchi, non ho pregiudizi, questo è il punto fondamentale. Su una cosa posso essere d'accordo con quelli della Padania, su una cosa posso essere d'accordo con Parenzo, su una cosa posso essere d'accordo su Pinco Pallo. Comunque, persino con una cosa che dici tu, Ciro. Ridardo esiste. Via Stalin. Beh, chi se ne frega, va bene, allora 100 vie Almirante. Se no, c'è solo via... per l'informazione. Allora 100 vie Almirante. Ma no, ho sbagliato a dedicare a Almirante. Va bene, ma non faccio il cretino, Eccola, eccola che arriva. Ecco la moglie di Almirante. Ecco, no, vabbè, lei, ha ragione lei, ha ragione lei, ha ragione. Beh, lei difende. C'è via Stalin, dai. Ma io non difendo via Stalin. No, lo difendi, hai detto prima. Sì, vabbè, ma allora invece su Almirante hai fatto no. Io sarei orgoglioso di abitare a Via Togliatti. Pensate come stai messo, sarei ragazzi. Orgoglioso, vabbè, come sei orgoglioso di dare via i Audi, via. No, mi sa che non ti seccarmi. No, io guardo, no, secco per me. Marco da Lecce, vai. Ciao Cruciani, ben trovato. Tra te e quel bastardo di Varin non c'è nessuna differenza, quello è un padano, un filo leghista antimeridionale di merda, e lo merda lo metto soltanto riferito all'antimeridionale, non perché del nord. Vabbè, io amo, poi vai avanti. Persone del nord. Allora tu rispetto a lui però sei ancora più verme. Sì. Perché sei verme? Perché mentre lui ha la costanza, la coerenza di dire io sono leghista, tu no, tu dici no, io sono intellettuale, io sono democratico, lascio parlare tutti. Però poi ogni tanto, e più che ogni tanto, sempre, lasci là la battuta contro il meridionale, contro il napoletano, contro i siciliani. Questo fa ancora più male. Diciamo che fa bruciare ancora di più il culo rispetto a Varin. Quello di vabbè, Marco, hai finito hai finito la tua sequela di minchiate? No, la tua minchiata la dici te. Cioè, l'hai finita quello della Lega Sud. L'hai finita la tua sequela di stupidaggini? Le sequele di stupidaggine, dici te, hai fatto parlare quello di Lega Sud. Allora? Quello di Lega Sud, che cazzo fa? Giustamente tu ti fai lo sputtani come dicendo tu sei quello che fornisce le ragazze alla Lega Sud, giusto? Come a dire, la Lega Sud è un covo di prostituzione. Ma io non so manco che cos'è. Ma io non so. Sì, vabbè, Marco, io non so allora nemmeno. Ma io non so allora nemmeno che cos'è la Lega Sud. Ma che mi dici tu quello che devo fare? Ma mi dici tu quello che devo fare? Ti comporti come leghisti. Ma mi dici tu quello che devo fare, Marco? Sì, mi dici tu quello che devo fare? Quando tu offendi il partito che io voto. Ma quale partito? Io non so, non so nemmeno l'esistenza di questo partito. E allora chiedi a me cos'è la Lega. Ma smettila, dai, Marco. Quel concetto dai. Di Lega Sud come covo di prostituzione. Ma chi l'ha detto, dai? Le belle ragazze. Vabbè, Marco, mi hai rotto le scatole. Antonio dalla provincia di Salerno, rimaniamo al sud, dai, Antonio. Buonasera. Dimmi, Antonio. Senta, volevo dire, sono rimasto disgustato dell'affermazione di Luttwak. Quale affermazione? il fatto che del cinismo, della morte, che i morti capitano, eccetera, eccetera, in guerra, eccetera. Così però, quando c'è una guerra e c'è un cooperante italiano in mezzo alle montagne del Pakistan, può capitare che crepi. Questa è la storia, non si può sfuggire a questa roba qui. Poi, per carità, le inchieste, le indagini, l'ha detto Obama, il drone, eccetera. Lui, solo questo volevo dire. La campana se ne era pure. C'è anche Luttwak che creperà. Tutti dobbiamo morire, Antonio. No, ma pure Luttwak farà un bel rumore. Tu dici, adesso te la sei presa con Luttwak semplicemente perché ha detto c'è un cooperante in una zona di guerra e può succedere che può scappare morto. Ma ha ragione lui, ha ragione lui. C'erano degli aerei che volavano. Ma che c'entra? Quello è un altro discorso. Dai, su. Siamo alle solite, va bene. Buona serata. Ciao Antonio, ciao. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato. Tu gelato al cioccolato, pubblicità. State ascoltando un programma offerto da G-Group, la prima multinazionale italiana del lavoro. Scopri i nostri servizi su ggroup.com. La Zanzara. E ancora qua, Simo. Trasmissione. Allora, quello che vi faccio ascoltare adesso è il proprietario di un albergo, credo in Valtellina, il quale ci spiega in maniera molto chiara perché ha deciso e soprattutto quanti soldi dà, non lui di tasca sua, perché poi viene risarcito dallo Stato, ai profughi che arrivano con le barche, non solo con le barche, in Italia. Il signor Montini si chiama, Montini. Cioè, il fatto che elenchi tutte queste cose farà incazzare un sacco di gente. Senti. Devo pagargli le fotografie che devono fare per il permesso di soggiorno, le fototessere. Devo dargli una scheda di 15 euro al loro arrivo. Devo dargli tutti i beni di sapone, dentifricio e così via. Eventualmente dargli anche dove non arriva la Caritas, che mi dà una mano, dare anche il vestiario, indumenti e così via. Quello che prendo io sono 35 euro a persona, da cui vanno detratte 2,50 euro a persona al giorno che devo dare a loro per le piccole spese. Allora, c'è ancora la storia dei Rom poi, No, però scusami, dimmi. Fai due conti, sì. Vuol dire che questo signore qui incassa 1200 euro al mese per ogni migrante. Sì, no, 2-3.000 euro al mese in tutto. No, 1200. Sì, vabbè, comunque paga quello che hai sentito. No, ecco, non è che gli costa, cioè voglio dire, una saponetta. È lo Stato che lo dà, è lo Stato. Sì, certo, certo. Dunque, ma arriva un profugo e noi paghiamo, questa è la sostanza. Arriva un profugo, arriva una persona umana. Sì, vabbè, arriva un profugo, un migrante, chiamalo come ti pare, non sto dicendo in senso negativo, paga uno e noi paghiamo, punto. E noi? E noi paghiamo la scheda telefonica. Ma io devo pagare anche quando tu ti vai a curare. Ma che c'entra? È un po' diversa la cosa. Io pago le tasse, amico mio. Pago le tasse, pago le tasse. Ti voglio segnalare che pago le tasse. Ti voglio segnalare che pago le tasse. Questi signori non le pagano. Ma non è che ci sono un sacco di poveri italiani. Il punto è che noi decidiamo di pagare questi qua. Punto, di dargli la scheda telefonica, 35 euro a persona al giorno. Ma non lo so, non possono telefonare. Arrivi col barcone e magari non telefoni. Non possono chiamare a casa. No, ma benissimo, se a te va bene così. Per dire nella loro lingua sono vivo. Ma se a te va bene, non è che non possono. La Caritas gli dà i vestiti, non va bene. No, non è che la Caritas gli dà i vestiti, è lo Stato che gli dà i vestiti. Siamo noi con le nostre tasse. Siamo noi con le tasse. Quanto costa una saponetta e un dentifricio? Vabbè, ma se a te non ti colpisce questa cosa. 40 centesimi. A te non ti colpisce, va bene. No, cioè, mi colpisce, voglio che loro abbiano il sapone, il dentifricio, come la scheda telefonica, i vestiti, 35 euro a persona al giorno. Ma i vestiti, non sono i vestiti che hanno dato i vestiti. No, ma io sto dicendo, hanno dato i vestiti, punto. Cioè, non è... I vestiti. No, il ragionamento che fanno alcuni, un poveraccio italiano, se va da una... non ti danno la scheda telefonica. Cioè, non... Ma se va dove? È una stupidaggine. No, è una stupidaggine, spiegami perché è una stupidaggine. Non è che gli danno la scheda telefonica a vita. sono stupidaggini queste che hanno. Non è che gli danno un telefonino illimitato via telefonata. No, certo, illimitato, che c'entra illimitato? È una stupidaggine. Per il tempo in cui restano in quella condizione. È una cosa incredibile. Vabbè, no? Sentiamo Paolo da Rovigo. Ma ti sta bene così, va bene, Paolo da Rovigo. Paolo da Rovigo, adesso vai. Ma chi te l'ha detto, Paolo? Ma perché? Pronto? Dimmi, Paolo. Ciao Cruciani, ciao Parenzo. Ciao caro. Ne abbiamo le palle piene, amico vedi? Mio. Non le palle piene ne abbiamo in Italia. Allora, ecco. prima cosa, dimmi. Tu hai parlato oggi del ministro che è intervenuto in un'aula deserta. Sì. Allora, quei coglioni che sono in Parlamento, e uso questo termine, mi dispiace, ma penso che nella tua trasmissione si possa usare, sì, che prendono 15.000 euro al mese, che prendono i vitalizi, è ora di portarli in piazza a calci nel culo. Perché? Perché dovevano stare oggi alla Camera a sentire il ministro che parlava, tra parentesi, secondo me inutilmente, della vicenda quello. Aeroporto. Allora cosa? Non ho detto quello, devono lavorare come tutti gli altri cristiani, come io che ho 58 anni e che lavoro da 38 anni e devo lavorare altri 5 anni per arrivare a uno schifo di pensione, perché due professori di bassa legna come Monti e Fornero hanno deciso di dare la pensione a tutti quanti i dipendenti INPDAP. Su una cosa ha ragione questo irato ascoltatore. Cioè, no, non sono irato, guarda, sono deluso. Insomma, sì, questo accalorato ascoltatore. Cioè, certo. I parlamentari il venerdì non è che è vacanza e tornano nel loro collegio. Se c'è una cosa importante, anche perché se io adesso sento una sola dichiarazione di questi qui che non erano in aula, una su questo, sulla vicenda di cui è riferito Gentiloni, io mi incazzo perché non c'erano, e quindi su cosa intervengono? Non devono pontificare. Perché poi non Paolo, c'erano. Poi? Poi seconda cosa, hai parlato della Lega del Sud, eccetera, qui io sono nel Veneto, territorio della Lega, tutte balle e le vedremo alla fine delle elezioni, chi vince le elezioni in questo posto qua. I leghisti, poveretti, anche loro, hanno delle cose giuste da dire e hanno tante cose sbagliate. Allora, la prima cosa, hai parlato di migranti, benissimo, i migranti purtroppo deve farsene carico, lo diciamo, l'avete detto tanto tempo, deve farsene carico l'Europa, cazzo, non possiamo noi averli tutti in casa. Mia figlia è andata in Inghilterra e per rimanere in Inghilterra deve avere sul conto 3.000 sterline, se no gli danno un bel calcio nel culo. Ma infatti in Inghilterra sono i numeri uno, perché se ne fottono, dico, vi diamo le navi per fare qualche cosina nel Mediterraneo, per fare finta di respingere i barconi o quello che volete fare. È un'isola che ha già siamo una penisola di poveri cani, perché purtroppo siamo dei poveri cani. Gli altri hanno una politica chiara, diciamo, chiara, contestabile, ma chiara. Anche gli inglesi, ma certo, Ciro, provincia di Firenze. Vai, Ciro. Molti anni. Senti, dimmi. Allora, io il mio è uno sfogo così. Volevo solo dire a quel bischero di Mr. Bean di Firenze che è andato a Roma. Sì. Che in un anno che è lì in poltrona, va bene? Sì. Ha aumentato il 18% le tasse. Io sono un piccolo artigiano, imprenditore. Lui dice di averle diminuite. Lui dice sì, vabbè, questo che deve dire lui? È stato votato dai 40%, è stato votato dai pensionati. Dai pensionati benestanti. Ma che vuol dire? Veramente non è stato votato da nessuno, perché è arrivato al governo senza il voto popolare? No, ho capito, ma i voti gliel'ha dati i pensionati di sinistra che stanno bene. Quelli che hanno fatto le primarie, allora, del Partito Democratico. Cioè, poi... quelli che hanno fatto le primarie, esatto. Quello che voglio dire io è che gli artigiani, gli imprenditori, il tessuto manufatturiero non ce la fa più. O paga i dipendenti, o paga i contributi, o paga le bollette di casa. Non ce la fanno vabbè, più. Poi? Perché gli utili non ci si fa più a pagare. Un bicchiere, ti fa un esempio, se costa 10 euro, io non lo posso vendere a 20, perché nessuno me lo compra. C'è un prezzo di mercato. Vabbè Ciro, però adesso non ti metterò a parlare di queste cose qua. Che cosa volevi dire? Volevo solo dire che è un gran bischero e basta, e che si levi da coglioni velocemente. Va bene, Franco, provincia di Sassari, vai. Da Alghero, per l'esattezza. Va bene, dimmi. Cruciani. Senti, a Parenzo, non a te magari dopo, un attimo, se mi concedi 10 secondi col caro estimato Parenzo avrei una cosettina da dire. Però se non inizi a parlare, sei qui, parla, invece di dire allora, se mi concedi eccetera, prenditi 10 secondi senza dare troppe chiacchiere, no, vai. Allora, caro Parenzo, senti un po', dimmi. tu dici che se passi, e sei sicuramente, perché ci credi, un uomo votato culturalmente alla sinistra e al centro, che va verso la sinistra, però dai, dai Franco, vai, vai, forza. Ecco, allora ti sto dicendo semplicemente che per quello che mi rappresenta, essendo un uomo che ha sempre portato il suo pensiero a sinistra, non, cioè, essere rappresentato a te pubblicamente, vabbè, non ma chi se ne frega di chi rappresenta, di chi rappresenta Parenzo, ma chi se ne frega, Franco, passiamo alla seconda cosa, dai, passiamo alla seconda cosa. Fermo, lo sai perché? Perché voi state parlando, non solo voi, ma tutti quanti quelli che hanno davanti un microfono, una telecamera, state parlando di cose che sono di una gravità. Ma quali cose? I morti, caro, i morti, perché quei morti lì sono quali uguali a te, a me. Ah, quelli del Mediterraneo. No, quelli che arrivano al Mediterraneo, perché ce ne sono tanti altri. Allora, capisci, cioè, le tue discussioni anche, quelle che dicono noi stiamo pagando, ma che cavolo stiamo pagando noi? Che cavolo stiamo pagando? Scusami, quando quelli arrivano qui, una volta quelli abitavano nella cosiddetta Africa nera o abitavano in mezzo al deserto, come hanno fatto a sapere che qui c'era Pascià e tanta roba? Perché usano i nostri mezzi. Ho capito. Ciao Franco. Allora, mi segnalano che in realtà esiste non solo via Stalin, non so dove, non a Bologna però, Parenzo, ti sbagli. No, infatti che sono via corretto. Marx, via Lenin, via Che Guevara, via Maresciallo Tito, via Ho Chi Minh, via Trotsky, via Mao, via Stalin che è a, credo in Sicilia, a Raffadali, via Rivoluzione d'Ottobre. C'era fino a poco tempo fa a Torino, se non sbaglio, o c'è ancora Corso Unione Sovietica, c'è anche via Unione Sovietica a Reggio Emilia, insomma ci sono tante porcherie in giro, eh. Cioè, se mettevano via Almirante, a me non me ne frega niente, l'Almirante non era un danno, cioè, non era una cosa clamorosa, Ci sono tante cose legate al comunismo che una cosa legata all'Almirante non mi pare che sia un così scandaloso. Luca da Milano, vai. Luca, ciao a tutti, ciao. Dimmi. Un paio di cose veloci. Innanzitutto volevo dire a Parenzo, io non voglio offendere come fanno tutti, però se, visto che ci sono 5 milioni, 4 milioni di leghisti idioti, me compreso, in Italia, tutti idioti, se non va bene, mi dicono che in Israele non c'è neanche un leghista. È bellissimo. Non ho capito, scusami però Luca, cerca di farti capire meglio, perché allora, questa sera intervenite e non capisco io, sarà colpa mia, non capisco, visto spiegati. Visto che in Italia è pieno di idioti, 4 milioni almeno, se chi non l'ha va detto? Bene... Chi l'ha detto? Parenzo. Sì, Parenzo dice che sono tutti idioti. Vabbè, no, allora... non tutti. Vabbè, allora? Vabbè, può andare benissimo da un'altra parte, non è un problema. Beh, io sono italiano, dove devo andare, scusa? No, anch'io sono italiano, sono un idiota però. Siccome lei, ma no, lei è idiota per l'osservazione che ha fatto, perché siccome lei ha detto vada in Israele dove non ci sono leghisti, ma lì ci saranno altri idioti come in qualunque paese, no? Siccome gli idioti non è un'esclusiva italiana. Era una premessa. Allora la sua stupidaggine è quella di dire vada a un altro paese, come se l'Italia non fosse il mio. Questa conferma che lei è un idiota, ma non in quanto leghista, in quanto idiota. Non ho detto questo. No, ma non importa. Lei comunque mi conferma di essere un idiota. Vabbè, passiamo alla seconda cosa, Luca. La seconda cosa, volevo dire al signor Cameron, la sua cacciatoriniera lì, volevo dirgli di infilarsela su per il culo. Perché, scusa? Visto che a noi non c'è niente. Ma non lo so, magari serve a pattugliare il Mediterraneo, eccetera, o no? Ma onestamente non ce ne faccia niente. Ma che ne sa lei che non ci serve quello che ci dà il governo? No, voleva parlare col signor Cameron, lui, lascialo che parli. Non capito. Che ne sa lei che non ci serve a niente? Mi spieghi, Luca, perché? Spiegami. Ma scusi, cosa ce ne fa? Abbiamo un sacco di navi che sono lì ad aiutare. Cosa ce ne facciamo? Vabbè, ragazzi, stasera però svegliatevi con questi interventi, perché mi avete fatto due palle così, fino sono 19.48. Avesse fatto, ce ne fosse uno, dico uno. Abbiamo con noi Maurizio Bianconi, Forza Italia, buonasera, buonasera. Buonasera a voi. Comandiamo? Molto bene. Il buon vecchio Bianconi. Maurizio, però tu oggi non c'eri alla Camera. Eri tra quelli, tra quelli assenti. Vergogna, vergogna, vergogna. Ma proprio no. I deputati stanno lì con un programma dal martedì al giovedì. Se lo sanno, fissano le Camere tutto per il venerdì o per il lunedì. Ma se giovedì alle 5 alle 6, quando siamo in treno tutti, con le camere disdette, ci dicono che il giorno dopo viene il ministro, è il ministro che non si vuol far ascoltare. Ah, tu dici che non è colpa di quelli che non c'erano, ma di del governo che ha fissato questa roba qui. Quando si è saputo chi è che era tornato in sede, c'era stato dato lo sciogliete le righe e noi siamo debitamente. Ma amico mio, la settimana lavorativa però dura fino al venerdì. Pensa se la settimana lavorativa per uno che fa politica veramente dura venerdì, sabato, domenica, lunedì. No, ma pensa se io che ma la settimana parlamentare di lavoro dura in genere dal lunedì pomeriggio al giovedì pomeriggio. Cioè io non ho capito una cosa, oggi dappertutto io trovo scritto adesso l'aula vuota della Camera, una vergogna. È normale, il lunedì e il venerdì l'aula è vuota. Ho capito, perché ma allora non perché... Si vota, perché non si vota. Sì, d'accordo, l'aula Maurizio. L'aula è vuota perché non si vota, Maurizio... e non c'è nell'ordine del giorno dei partiti di andare. Quindi questa è una demagogia un po' stolta, ecco, diciamo, scusate, per mai così. Mentre... No, allora perché fissano, allora sono degli idioti che fissano. No, che sono dei furbi. Cioè, perché furbi? Lo fanno apposta, dici? È logico. Quando cioè... ci sono gli argomenti impegnativi, il governo va il venerdì. E lo dice giovedì alle 7, quando tutti sono tornati in sede. Ah, tutti. Infatti, adesso leggo, per esempio, su Repubblica, no? Per le comunicazioni sull'aeroporto, camera deserta. Come se fosse. Normalmente poi la gente si incazza. Anch'io mi sono incazzato, ma mi incazzo ancora. Ma ora che vi ho spiegato come stanno le cose, bisognerebbe andare a dire al signor primo ministro che una comunicazione come quella poteva anche differirla a lunedì, dando l'avviso e preavviso ai deputati che lunedì ci sarebbe stata questa cosa. Dunque tu il fatto di essere stato assente oggi per le comunicazioni sulla porta, che poi non so a cosa servono le comunicazioni sulla porta. No, niente, poi le comunicazioni sono comunicazioni, non è che poi si apre un dibattito. In genere ce n'è uno che per gruppo che parla 5 minuti, saluti e sono e tutti tornano a casa, perché la gente pensa che sia cosa. E bene, comunicano. Si hanno fissato, cioè uno se lo può pure sentire in televisione, chi se ne frega, ma quanto vuole, perché non ha possibilità di intervento. Cioè meglio se sentire uno alla fine... per gruppo per 5 minuti o 10 o addirittura nessuno, non si vota nessuna risoluzione, quindi è tutta una, meglio sentirlo in televisione, una pantomima. Sì, chi la vuol sentire? Io ho sentito lui ieri sera e mi è bastato, insomma. Cioè tu dici, no, alla fine pure queste cose, la comunicazione sull'aeroporto, cioè tutta una cosa che non serve a nulla, queste cose formali. È un modo per uccidere la democrazia parlamentare, questa inutilità verbosa. No, su questo non ha torto Bianconi, però devo dire. Cioè... No, ma infatti è una ricostruzione che torna. Sì. No, adesso la ricostruzione sul fatto che lo mettono apposta il venerdì, io non lo so. No, cioè... perché l'hanno fatto tutti i governi. No, ma voi storicamente guardate i governi quando sono in difficoltà, se fanno delle comunicazioni che non sia il lunedì o il venerdì. Voi tutti i governi hanno fatto così, ha ragione. E tutti, mica dico questi, dico tutti. No, ma infatti quando bisogna essere obiettivi, mica dei fanatici. Ha ragione Bianconi. Cioè tu dici, quando quelli stanno in difficoltà, perché non si sa bene se lo sapeva, Renzi non lo sapeva, un italiano cooperante, l'America, esatto, le relazioni, gli accordi, eccetera, esatto, eccetera, eccetera, invece di fare un dibattito serio, magari in un giorno dove ci sono tutti, martedì, mercoledì e giovedì, lo mettono per il pomeriggio. E aprire un dibattito, cioè... mettere la ritualità della comunicazione, che è il governo che dice e ogni gruppo che parla per 5-10 minuti con un elevatore prefissato, aprire una discussione che deve terminare con una risoluzione, approva o non approva quello che ha fatto il governo. Comunque ragazzi, questo qui non succede. No, ho capito, qui c'è una differenza fondamentale però, per esempio, tra quello che scrive il New York Times oggi, Obama sapeva, non lo disse a Renzi, e quello che ha appena detto Renzi stesso. Ha detto la certezza della morte l'abbiamo avuta mercoledì e credo anche gli americani. Allora, adesso ha ragione il New York Times e Obama, non so perché per 2-3 mesi non ha detto a Renzi, o mente Renzi o chissà, magari il New York Times segue le regole della comunicazione americana, che è sempre documentata, e se c'è qualcuno che dice le bugie sono Obama e Renzi, non il New York Times, non è neanche un fra i miei giornali favoriti, però Obama c'è scritto perché l'ha saputo mercoledì o martedì, perché l'intelligence a lui l'hanno informato dopo 2 mesi, con la scusa del dire che devono avere la certezza assoluta. Secondo me hanno fatto la buca, hanno cercato di coprirla, quando non ce l'hanno fatta più gliel'hanno detto. Comunque ha ragione Luttuak, se uno va in una zona di guerra, un cooperante va in una zona di guerra come quella, ti puoi aspettare di crepare. Questo è un altro discorso rispetto alla omissione di informazione, perché lui è andato lì, Renzi è andato lì a fare delle richieste e Obama gli ha detto bellamente di no, gli ha chiesto i droni, ha chiesto altre cose, e quindi ha fatto buon viso a cattivo gioco, non ha avuto grande successo Renzi, ma non me la prendo con Renzi, dico la cosa obiettivamente come sono. E probabilmente questo qui non se ne, il presidente non se l'è sentita di dirgli anche guarda poi te se ne è ammazzato uno per sbaglio. Senti un attimo, sarebbe stato un incidente molto più grosso. Ora faccio, cerco di ricostruire. Appena Renzi è venuto qua e dopo lui ha trovato il modo di comunicarlo. Il fatto grave è sulla tardività della comunicazione. E poi purtroppo dispiace una cosa così, però è vero, c'è il rischio quando si va in questi posti. Ma sì, ma poi noi facciamo dei drammi pazzeschi per la morte di una persona, in altri paesi non si fanno, per carità. No, io questo sono molto italiano, io su questo sono molto, anch'io li faccio i drammi, anch'io sono molto italiano su questo. Sì, d'accordo, però in altri paesi quando si sta in certe zone c'è un morto e capita di morire, cioè la morte non ha questo carattere. Però no, sì, vabbè, però ecco, no, non sono io di quelli che è molto disinvolti su questa cosa. Allora, parliamo di politica però, subito dopo la pubblicità, 800 24 00 24. Questa radio deve chiudere, questa trasmissione, punto. E io penso che debba chiudere la trasmissione, poi anche la radio se non chiude la trasmissione. La Zanzara. Dica a voi due d'amico, fatevi i cazzi vostri. Allora, caro Parenzo, sai che cosa mi ha sconvolto? Era il Maurizio Costanzo Show della scorsa settimana e c'era Loredana Bertè che dopo la cosa di Sgarbi contro suo figlio, no? Sulle gravidanze, sul fatto di avere tanti figli senza rendersene conto, ha cominciato a sparare, a ritirare fuori una vecchia storia sua, del padre, della sua famiglia, eccetera. Una roba incredibile. Senti, Loredana Bertè. Per me non ho mai chiamato né padre né in nessuna maniera, quindi evitavo. Poi, da quando aveva buttato mia sorella dal balcone per un 6 di latino, perché lui era professore di lettere greco al liceo classico, per lui era una montata pazzesca, mi sono arrabbiata quando per un 4 invece in inglese mi ha rischiato praticamente la vita, perché è scappata di casa per il terrore di prendere le botte. Mimi era Mia Martini, ovviamente, eh? Odiava le donne. Pazzesco. Odiando le donne, non gli è capitato il figlio maschio. L'unico figlio maschio doveva essere fra me e Mimi. Ma purtroppo lui aveva l'abitudine di prendere a calci la madre durante l'ultimo mese di gestazione. E con noi non c'è riuscito, perché provava di tutto, veleni vari, ma io sono sopravvissuta, Mimì è sopravvissuta, altre due sono sopravvissute, uno non ce l'ha fatta, era l'unico maschio. Da quel giorno se ne andò di casa. Spero che quel bastardo muoia. Però anche tu soffri perché c'è un legame. No, io non soffro affatto. O hai sofferto perché... Non vedo l'ora che crepi. Ma non so abbastanza in effetti però... Per prendere mica peraltro le ceneri di mia sorella e finalmente spargerle davanti a Bagnara nel mare. E questo purtroppo finché non crepa quel bastardo non posso farlo. Non vedo l'ora che crepi. Va bene, 800 24 00 24, siamo con Maurizio Bianconi, Forza Italia. Oggi Verdini pare che abbia detto, Bianconi, che ormai a Berlusconi, abbia detto a Berlusconi, ormai arrenditi, Renzi è il numero uno, ti devi rassegnare. L'hai letto? No, è tanto che glielo dice. Ah, non è la prima volta? No, dice. No, la tesi di Verdini, che non è neanche misteriosa, è guarda che la scena è dominata da Renzi. Renzi è un grandissimo personaggio. Sì. Il popolo del centrodestra è disperso completamente. Sì. Non abbiamo possibilità di recuperarlo. Sì. Se non sotto l'egida di Renzi. Certo che stando con Renzi e ti devi rassegnare a fare il numero due. Questo lo dice a tutti Verdini. Non è, ma una cosa io, ma Verdini andrà via da Forza Italia, secondo te? Dovrebbe essere cacciato? Secondo i canoni che ha utilizzato con Fittiani, sì, però non penso che debba essere cacciato, perché è una dialettica normale, cioè che Forza Italia ci sia una parte fra i quali ci sono io, che dice che bisogna mettersi alla destra di Alfano e nello spazio fra Salvini e Alfano, e c'è chi dice che invece di mettersi alla sinistra di Alfano, molto vicino a Renzi, è una dialettica che nel centro-destra c'è sempre stata e Bertini la rappresenta. Senti, ma sei sempre convinto? Il casino l'ha fatto chi diceva, mi ricordo di Brunetta che diceva che con Italicum bisognava votarlo per forza l'anno scorso, e quest'anno dice che è un delitto contro la Costituzione. La confusione la fa chi non tiene una posizione, e Berlusconi non l'ha tenuta la posizione. No, ma infatti sull'Italicum è ridicolo. Adesso Renzi ha appena detto che se cade l'Italicum cade anche il governo, cioè se non passa l'Italicum. Ma questa è una sciocchezza tutta sua. Ma è una follia, perché, infatti, questa roba. No, ma sì, ma poi è zero in diritto costituzionale, in diritto delle istituzioni, perché la legge elettorale è tipicamente una legge di regole che dovrebbe essere del Parlamento, che non dovrebbe essere mai un programma del governo. Però quello ha messo... E quindi un governo mai ci può andare in crisi, questo è il punto. Vabbè, però quello la mette come programma del suo governo. Ma lui può fare come gli pare, fa giochino suo, si è inventato la sua Costituzione. Quando dicono che l'Italicum è incostituzionale, dicono una sciocchezza da un punto di vista formale, ma da un punto di vista sostanziale dicono una cosa molto corretta. Lo dice anche Dalimonte, che è quello che l'ha scritta in pratica. Sì, non so, sì. Il professore sì, perché dice che attraverso, usa un termine che non so se è tanto radiofonico, surrettiziamente dice, cioè per vie traverse. Vabbè, sì. Per vie traverse, attraverso la legge elettorale si ottiene una repubblica presidenziale. Invece la Repubblica Presidenziale si dovrebbe ottenere tramite la variazione della Costituzione. Senti, Maurizio, ma tu per esempio i migranti li piglieresti a casa tua? Se adesso c'è questa polemica sui profughi. Ma perché li devo prendere a casa mia? Che ne so, ti danno pure i soldi, 35 euro al giorno. No, e c'è la gente che li prende per cammino di guadagnare e diventa un lavoro come un altro. Io non ho bisogno. No, non prenderesti un migrante a casa tua? No, assolutamente no. Se dovessi fare un'opera di bene e ti trovassi di fronte è una realtà della quale uno ha bisogno di qualcosa, non mi tirerei indietro. Però un migrante a casa tua, ma un migrante a casa mia per 35 euro al giorno, no, davvero. Ma guarda che sono 1200 euro al mese, però. Ma è un che me ne frega a me. Intanto, se me li danno, li dovrei spendere giustamente tutti per lui, se no sarei un figliolo di buona donna, perché ti figurerei sulle distrazioni. No, ma io non ho bisogno di compagnia. Lo tratti come Robinson Crusoe trattava Venerdì. No, vabbè, adesso. No, ma non scherzate, cioè noi si scherza su una cosa così grossa. Ma affitteresti, per esempio? Sì, siamo di fronte a non solo a una tragedia, ma siamo di fronte anche a un'incultura complessiva di fronte a questo fenomeno che fa paura. Da l'una e dall'altra parte. Senti, ma dai buonisti e dai cattivisti. Ma per qualcuno può essere, no, però scherzi a parte, per qualcuno può essere invece un'idea buona, pensa agli anziani, no? No, non scherziamo neanche. Non scherzo per niente, pensa agli anziani che possono avere il vantaggio sia di avere una persona in casa che magari li aiuti e fanno anche un'opera di bene. Ma non è così, non funziona così. Senti, ma tu invece affitteresti? Deve stare vicino agli anziani, deve avere o essere affettuosamente vicino, avere un tasso di specializzazione. Non è che si piglia un profugo e ci si mette lì accanto a fare quello che non senti, è il invece suo. Tu affitteresti la casa a un rom? Io no. A una famiglia rom? No, mai. Ma non ci penso neanche. Vabbè, magari possono pagare. Ma a me che paghino o non paghino non mi interessa. Io non ritengo che, l'ho sempre detto questo, non ritengo che i rom siano, se sono nomadi viaggino, se non sono nomadi si adeguino, siccome non intendono adeguarsi. Stavano a casa loro, cioè, tu dici se che... tutti i campi nomadi per fare gli facciano le case, vadano nelle case le loro, io l'affitterei. Ho capito, io non affitterei la casa a nessuno che non fosse uno che non mi dà una fideiussione e mi garantisce il pagamento. Vabbè, mettiamo che ci sia una famiglia rom che ti garantisce tutto questo, non gliela affitti? Sì, se stanno alle regole, sì. Quello se è il punto. Mancherebbe altro, no? Però di principio se esistesse alle regole, mi garantiscono che me la tengono bene, cioè fanno quello che devono fare perché non gliela devo dare. Ma secondo te hanno il latrocinio nel DNA i signori rom? Sì, secondo me sì, hanno il non lavoro, cioè per loro è una forma di lavoro. Il mendicare, il rubare, il non lavorare regolarmente rientra nella loro cultura, devono variare la cultura. Cioè nella loro cultura, nel loro DNA c'è il fancazzismo, dici, il fancazzismo. Non è il fancazzismo, è un modo di campare, anche questo. Rubare, dici, per rubare. Per noi è fancazzismo, perché noi abbiamo una società con certe regole. Sì. Loro vivono di un altro tipo di società, sì, per cui le regole sono altre. E il fatto che stanno nella nostra società e le loro regole sono per noi cose... Cioè loro hanno dentro la loro cultura, nel loro DNA, nel loro come dire. Sì, ma lo dicono. il mendicare, rubare, eccetera, eccetera, per loro è normale. È normale, eh? È normale. Fa parte perché che sbuffi, Parenzo, magari è vero. È così. Ma cosa vuoi che faccia? Ma su questo non c'è niente di offensivo. Come il, come il nomadismo è, nella loro, è nel loro DNA. Ma noi ci siamo così, non diventati, molti sono diventati stanziali. Come fa una persona così intelligente, sì, come Bianconi, ripeto, veramente, sì, magari io non la penso come lui, ma è una persona intelligente. A dire cosa? A dire un'ovvietà. Nella loro cultura. Questa, cioè, come fa? Questo è il punto. Nella cultura, no? Nella loro cultura, te non sei, non le sai le cose. Sarebbe come se ti dicessi. Allora, ti faccio, sarebbe come se ti dicessi. Te astraiti un attimino, te astraiti. Quando i nordamericani presero a ammazzare gli indiani, li volevano ridurre alla loro cultura. Ma l'indiano per cultura aveva quella dell'aggressione, quella della guerra, quella della supremazia, quella della caccia. Era un disonore coltivare i campi, era un disonore fare dei lavori che le facevano soltanto le donne. Avevano il concetto di sottomissione, di schiavismo. Era la loro cultura. Dopodiché gli americani dicevano che non era, che non corrispondeva. E dunque noi dobbiamo fare come fecero i... E noi non dobbiamo fare, bravo, non dobbiamo fare come loro e dire, ah, non è vero, ah, si devono adeguare. No, sono così. E quindi, siccome ci sono, bisogna confrontarsi per come sono, non come vorrebbe, come vorremmo noi. Vabbè, allora, dobbiamo imporre... Io non è che li voglio cacciare, voglio dire che sono così. Tutti i programmi scolastici che abbiamo fatto sono tutti, falliti, sono falliti. Tutti, io in Regione Toscana ho sempre votato leggi per i rom e per i sinti per dare i loro denari, non ci sei mai tolto niente di perché di non vogliono integrarsi, tu dici. Non, è difficile, piano. Vabbè, piano allora facciamo come fecero le giubbe, come si chiamano? No. Piano, sono convinto, ci vorrà di più, ma ci sarà una buona parte che si integrerà. Ma è una cultura che fa resistenza a certe regole. Senti una cosa, ma tu che sei un vecchio di vecchio, no? Ma insomma, un vecchio politico di destra, domani festeggi o no? Dimmi la verità, oppure è una... Per me è una cosa molto superata. Quello, se voi leggete, avete l'occasione di trovare un libro che si chiama La fine di una stagione di Vivarelli, che era un... Vabbè, capito, ma domani che... No, ma è che è morto, voglio dire. Sì, ma non festeggi niente. Io la penso come lui. Io sono odio l'antifascismo che incomincia il 25 luglio del 43 e finisce il 25 aprile del 45. L'antifascismo comprende Gronchi che fu sottosegretario, comprende Napolitano che fu del GUF, comprende Fanfani che stilò il 25 aprile ti fa schifo. Comprende tutto un mondo che poi mandò al massacro gli ultimi imbecilli. Ecco, ma il 25 aprile ti fa schifo, questa è la realtà. Cioè, il 25 aprile non è una festa, nel senso che non è una liberazione. Ma come è festa? No, è festa perché è finito un regime. Dunque, ma guarda, non è una liberazione, guarda, è il trionfo della libertà. Il 25 aprile, a parte che è il compleanno di mio papà, vabbè, questo ce ne faremo un altro. E quindi per anche me è il mio cugino, ma questo può dire niente. Questo che c'entra? Io non lo ritengo, voglio dire. È una doppia festa. Prima abbiamo capito. Va bene, ma no, non voglio fare. Cioè, è tutto un argomento superato. Voglio ma superato dire un cazzo, che il 25 scusami. No, è superata con questa polemica. Non è superata perché se ancora comincia la democrazia in Italia. Ma non c'è una liberazione della quale vantarsi. Ma come no? Perché l'Italia l'hanno liberata gli anglo-americani. E al nord c'erano i partigiani. L'hanno liberata gli anglo-americani. Quindi abbiamo dato la nostra partecipazione. Ma noi bisogna festeggiare l'inizio della libertà. Non la libera, è un discorso lungo, ragazzi. Ma non è lungo. Fermiamoci qui, Parenzo, non me ne frega al niente. Al nord c'era la resistenza. Vabbè, ma chi se ne frega, dai, voglio al sapere una. Va bene, d'accordo, ma non è un corso di storia questo, voglio capire. Insieme hanno liberato l'Italia. Dai, non me ne frega niente. Voglio capire, Berlusconi, a me mi ha fatto ridere una cosa, a parte la marginalità ormai di Berlusconi, ma quello l'hai detto da tempo tu, L'hai detto da tempo. Io gli ho fatto carico di una serie di errori politici che ci hanno portato. Ma pare che sia, dice, bersaglio dell'ISIS, ma tu ci credi una buffonata? io ho qualche perplessità di cui appunto, cioè è un po' da mettersi a ridere, dai, Berlusconi. Non lo so, io ho delle perplessità, non si può mai scherzare con queste cose, ma questa cosa mi ha lasciato molto molto molto molto perplesso. Cioè non posso fare i comizi all'aperto perché sono bersaglio dell'ISIS, dai, adesso francamente, cioè, non lo so, una volta lo fece all'aperto perché si è una tettuina nel muso e un cevalismo. Vabbè, ho capito, voglio dire che il rischio c'è sempre, che poi l'ISIS l'abbia proprio specificatamente minacciato. Ma ti pare questi dell'ISIS che si interessano a Berlusconi? Ho delle perplessità. Vabbè, ciao Maurizio, ciao. Ma maledetto il giorno, io dico che mio marito mi ha fatto sentire questa trasmissione. La Zanzara. Sono tempi duri, non tanto per noi, non ce ne frega niente, nulla, zero. Allora, c'è un candidato alle elezioni presidenziali americane, che si chiama Ted Cruz, che è un senatore repubblicano del Texas, che nei giorni scorsi ha detto, ti giuro, è un metodo secondo lui per rilevare l'infedeltà della donna. Dio dovrebbe dare alle donne un imene che ricresce ogni volta che ha un rapporto sessuale con un ragazzo diverso, perché questo sarà un segno visibile della violazione di fiducia. Cioè, è un mondo meraviglioso. Senatore repubblicano del Texas, si chiama Ted Cruz. Ma le trovi tutte tu queste notizie estere, diciamo? Dio dovrebbe dare alle donne un imene che ricresce ogni volta che ha un rapporto sessuale con un ragazzo diverso, perché questo sarà un segno visibile della violazione di fiducia. Ma come l'hai trovata? Beh, stupendo. Io lo trovo meraviglioso. Ma ce ne fossero anche in Italia di repubblicani, cioè, no, di... Ma dico, queste notizie dove le trovi? Dio, ma dove le trovo? Che ne so. Cioè, Dio dovrebbe fare, non è questo l'importante, Dio dovrebbe far ricrescere l'imene alle donne per verificare se tra di... No, ma non capisco nemmeno com'è la storia, cioè com'è che dovrebbe funzionare questa roba qui, scusa. Cioè, dovrebbe ricrescere l'imene alle donne per verificare se tra di... Non l'ho capito, spiegami. Io? Tecnicamente com'è la storia? Mi pare che questo pazzo conservatore, perché tale vabbè, sarà, sì, repubblicano, sì, ultracattolico, conservatore, repubblicano, sì, come ce ne sono negli Stati Uniti, vabbè, auspica che Dio... faccia ritornare sostanzialmente la verginità, sì, questo si tratta, alle donne. Questo mi pare di aver capito. Tommaso da Monza, dai. Buonasera Parenzo. Dimmi. Volevo dire tre cose velocemente riguardo a temi toccati questa sera. Uno, vabbè, riguarda quello dell'America, l'italiano morto, e secondo me Obama ha fatto la cosa giusta, cioè ha fatto quello che avrebbe dovuto fare qualsiasi capo di Stato. Ma non lo so, non possiamo saperlo se ha fatto la cosa giusta, la cosa sbagliata, dai. Ma comunque, spesso ho sentito oggi critiche riguardo al fatto che ci sono voluti 3 mesi per sapere. Quello che credo è che comunque, ammesso che, e io credo questo, non sapessero effettivamente che c'erano dentro questi 2 soldati nel luogo che stavano bombardando. Sì, però adesso non stiamo qui ad analizzare le cose. Vai al sodo di un'altra cosa, Tommaso. Ad analizzare, ha fatto bene, ha fatto male Obama, se c'erano, che non c'erano. Non sono cose che non possiamo sapere nei dettagli, no, forza. Va bene, un'altra cosa riguarda la via Almirante. Secondo me è giusto che venga concesso a chiunque il privilegio di avere una via intitolata a proprio nome, soprattutto appunto per quelle vie che sono intitolate a gente come Stalin, eccetera. E riguardo a questo volevo aprire brevemente un'altra cosa un po' più ampia, cioè riguardo al fatto che io mi sono stufato del fatto che il fascismo viene aberrato in tutte le sue forme, mentre il comunismo invece è qualcosa che spesso viene, di cui viene sopportata, tollerata l'idolatria. Cioè, va bene, ho capito Tommaso, ho capito benissimo. Ragazzi, sveglia, se io sento ancora interventi così non faccio intervenire più nessuno, mi avete rotto i coglioni, traffico. Dopo che fai? Quando vai a dormire ti sogni traffico. BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta La Zanzara. Vediamo se vi svegliate, forza, Claudio da Roma, dai, Claudio. Allora, dimmi. Ma ti hai fatto sentire mezz'ora Bianconi, mi incazzare come una bestia. Cioè gli indiani che hanno fatto sono arrivati gli occidentali a rompere i coglioni a quelli che bevono beatamente senza alcol e senza armi. Beh, senza alcol, insomma. Ma lo so, l'hanno distrutti e poi loro sono quelli che... Poi l'ha paragonati ai nomadi. Sai chi assomiglia ai nomadi? Chi? A me in Italia. Chi? E guarda i politici, no? E sì, guarda se ritrovi qualche cosa. Siamo finiti pure al passaggio da un partito all'altro, no? Quindi, il nomadismo della politica. Nomadismo, dici tu. Poi sono ladri, perché sono ladri. E dunque, ma io sono ladri, preferisco essere un rom, sono politico. Tu dici, c'è il nomadismo anche in politica, c'è il passaggio da un gruppo all'altro. Ma guardiamo Verdini. Rubano Verdini come i rom. Maledetto, no? Verdini maledetto, che ha fatto? Allora, se iniziamo parlando che Berlusconi è il numero due, lui è riuscito a far diventare numero due anche un numero uno che si chiama Galli, se vi ricordate. Sì, sì, vabbè, claro, la roba vecchia, Giovanni Galli, sì. Oh, comunque, in conclusione, io volevo dire, volevo iniziare a parlare di Cozzolino, ma Cozzolino, sì, l'ex fidanzato finto di Noemi. Su Berlusconi, che un altro po' è stato un mecenate. Io ho tanti mesi che volevo dire una cosa. Lo so, Claudio. Tanti mesi. E poi finisco, sono molti mesi. Dimmi. Sono mesi. Sembra che stiamo lì. Ci pensavo, ma la voglio dire. Non so se voi ricordate un certo Mazzacurati che adesso è scappato in America. Non lo so, ragazzi, non mi fate una testa così stasera con ste minchiate. Mazzacurati, Mazzetta. Come no, Mazzacurati, sì. E c'aveva un figlio, Mazzacurati, regista. Allora, questo stava su a passarsi le mazzette. Gli è morto un figlio di 57 anni. È andato al funerale e il giorno dopo ristava lassù a Venezia. Questi suoi politici e i corrotti. Questo non era un politico in realtà, diciamo, cioè, era un alto funzionario. Vabbè adesso perché ci volevi ricordare sta storia di Perché poi guardiamo che in Parlamento oggi non c'è stava nessuno, a prescindere che se un politico può arrivare pure a 500 chilometri per una situazione del genere, ti arriva un messaggino, tu giri il culo e torni, tanto non paghi nulla, non paghi nulla. Vabbè, Claudio, grazie. Claudio da Cuneo, vai. Cruciani, la buona serata. Vorrei esporre un quesito che non ha nulla a che fare, o forse di sponda potrebbe interessare parzialmente il 25 aprile. Questa mattina ho avuto la notifica da parte di un vigile dell'ennesimo verbale da circolazione, nulla, diciamo lite da ballatoia, con una multa da circolazione. E io con la gentilezza l'ho fatto entrare in casa per firmare questo verbale. In soggiorno ho una foto appartenuta a mio nonno del Duce di Benito Mussolini autografata. Costui dicendo, ma questo ringrazio di questo verbale di 600 euro, se fosse per me gliela farei di 6.000. Io ho sbattuto il verbale sul tavolo e se ne è andato. Gliela farei di? Di 6.000. Perché? Questo vuoi chiederlo a lei, dottor Cusciani, con la sua... Ma che ne so io, ma è lei che c'era lì insieme a quelli della... Ho capito, ma chi è la persona sbagliata, io o costui? Ma non lo so, ma che c'avevi, che cosa avevi di strano, questo quadro di Mussolini, che cosa? Esatto. Hai un quadro di Mussolini, c'è qualcuno che si è incazzato, questi qua della finanza, perché hai visto un quadro di Mussolini? Esatto, questo vigile urbano... Vabbè, sarà stato uno un po' allergico a queste cose, ha visto il quadro di Mussolini, si è inalberato e ha detto te la farei pagare 6.000 euro sta multa. Esatto. Sono cose che succedono. Non che ti frega? Che ti frega? Non farei un dramma, insomma, di questa cosa qua. Ah, perfetto. Vuoi fare un dramma? E che ti ha fatto pagare di più? Non ti ha fatto pagare di più? Questo sarebbe stato grave. No, però mi è sorto il dubbio che... Siamo in democrazia o non siamo in democrazia? Ma non mi pare che sia una cosa, nessuno ti ha proibito di mettere il quadro di Mussolini. Ho tre busti di Mussolini, tre busti di Stalin a casa, figuriamoci. Ciao Claudio, Federico. Grazie Asti, vai. Federico D'Asti. Ciao. Federico, dimmi. Sì, guarda, una considerazione su tutti questi che vomitano odio e parlano in maniera estremamente violenta nei confronti dei migranti, anche con la giornalista di quel giornale inglese, non so, ma guarda, piuttosto che fare un ragionamento, che non c'è niente da fare, c'è da lanciare un allarme. L'allarme è che costoro di fatto stanno rappresentando un'interpretazione più moderna del maligno. Cioè, del maligno, cioè chi sarebbero? Sono adoratori di Satana. Ma chi sono? Questi che parlano di tutto questo odio, no? Ne voglio vedere morire di più, ne voglio vedere morire il doppio. Anche quelli che sono intervenuti qui alla Zanzara, dici tu. Ma sì, ma certo, ma quelli fanno le messe nere, quelli bevono il sangue del caprino, vanno in giro appendendo i crocifissi all'incontrario e ci pisciano sopra. Ma è ovvio, bisogna chiamare padre Amor, bisogna chiamare l'esorcista. Tu dici che sono posseduti dal demonio, dal male. Posseduti dal demonio. I cittadini per bene se devono rendere conto e smascherarli perché sono tutti infiltrati nella società civile. Ma sono adoratori di Satana. Dei... Ma sono tremendi. Sono questi vogliono portare i bambini nelle messe nere. Ma bisogna togliergli i bambini. Togliere i bambini a quelli che esultano sul web per la morte dei migranti, dici tu. Togliere i bambini. Vabbè. Continua la nostra inchiesta sui cognomi, caro Parenzo. Grande inchiesta sui cognomi. Anzi, iniziativa per cancellare i cognomi più indegni dall'anagrafe italiana. In collaborazione con i funzionari di vari comuni. Siamo ancora al nome Bocchino, che è quello di un ex politico italiano, Italo Bocchino. E insomma, c'è gente che proprio, soprattutto ci sono comuni, ci sono sindaci che proprio non sopportano che nella propria città ci possano essere delle persone che si chiamano Bocchino. Beh, ma non è bello da parte di questi sindaci. Beh, ho capito, però ragazzi, a me non piace. Non è bello. Ma Bocchino non è un bel cognome, dai, oggettivamente. Bocchino è un mio amico, è un ottimo. Ah no, ma lui sì, però non è un bel cognome, è dai. È una storia di famiglia, ma perché c'era bello Cruciani, scusa. Beh, dai, tra Bocchino e Cruciani è meglio Cruciani, dai. E per lui è più bello quello. Vabbè. Poi è il suo. Pronto? Sì, buongiorno, chiamo dal comune. Sto cercando Bocchino Antonio. Per quale motivo? E lei è il signor Bocchino? No, sono il figlio. Posso parlare cortesemente con suo padre? Sì, ma mi può dire il motivo? Sì, certo, posso anticiparle il motivo, se è piacere. Il comune, per una questione d'immagine, ha deciso di cambiare alcuni cognomi giudicati imbarazzanti, sconvenienti, e fra questi anche il vostro. E quindi avrei bisogno di parlare appunto con suo padre. Vabbè, ma non penso che voglia cambiare cognomi. E vabbè, mi faccia parlare però con lui, sentiamo cosa dice suo padre, non crede? Sì, però già vi anticipo che è la vita che portiamo questo cognome, lo portiamo, siamo orgogliosi di portarlo. Sì, non dubito, ecco, ma se mi fa parlare cortesemente con suo padre. Ma ho pure qualche sindaco Bocchino. Io sto facendo il mio sì, lavoro. Sì, ma voi non avete colpa, aspettatelo come vogliamo. Sì. Come ho anticipato già a suo figlio, il comune ha deciso di modificare alcuni cognomi. No, e perché? Perché, come le dicevo, per una questione di decoro. Di decoro dell'amministrazione pubblica. Chi conosci, chi fa? No. Neanche per 1.000 euro. No, signor. Lasciamo stare i 1.000 euro. Quei 1.000 euro fai cose più importanti. Ma sì. A me mi interessa, deve stare in grazia di Dio. Che devo cambiare? Pronto? Sì, buonasera, chiamo dal comune. Signor Bocchino Antonio? Sì, sono io, lei chi è? E sono un funzionario del comune di Benevento. La chiamo perché il comune ritiene che certi cognomi vadano cambiati perché, come lei potrà intuire, creano un certo imbarazzo. Lei dice la verità, ma a me non mi crea nessun imbarazzo. Scusate, voi siete un funzionario del comune? Sì. E che volete? Scusate, perché mi state chiamando? Il comune ritiene, per una questione d'immagine, di dover cambiare alcuni cognomi e il suo genera danno all'immagine del comune di Benevento. Questo è il... Scusate, i tengo 55 anni, non mi è mai capitato. Bisogna cambiare il cognome e il comune stanzia anche 1.000 euro per coloro che volessero e accettano di cambiare cognome. Lei ma accetta? Ma come state pigliando per il culo? Mi date 1.000 euro per cambiare un cognome? Ma non si è visto mai questo periodo di crisi? Ma che state dicendo? Ma questo periodo di crisi voi mi state dicendo che mi date 1.000 euro per cambiare un cognome? Sì. Ma parlo poco, ma se sentite mi state pigliando, ma come vi chiamate? Io non faccio mai visto, ma io sono in coppo comune, ci vado coppo, giù tutti ma non faccio mai visto, ma chi siete voi? Cioè, se non mi lascia neanche dire il mio nome, io sono Esposito, va bene? E mi trova al comune e se vuole venga pure al comune, io non ho tempo da perdere. Secondo me che mi state pigliando per il culo, signor Esposito, state no. Buono, non tengo di mai aperto. Va bene. Va fa un culo, su strunz, stati buoni. Oh, ma vattene a zappa la sera. State ascoltando un programma offerto da G-Group, la prima multinazionale italiana del lavoro. Scopri i nostri servizi su ggroup.com. La Zanzara. Genova, dai, 800 24 00 24. Walter. Sì, ascolta Cruciani, ascoltami bene. Noi siamo, secondo me, in debito con l'Africa, perché ci stanno mandando veramente migliaia e migliaia di migranti, ne conviene? Non lo so, comunque. Ma non è che ci li mandano. Vabbè, sì, un po' li mandano, certo. Sì, poi... va bene, voglio dire, arrivano dall'Africa, comunque sono africani, per cui siamo in debito, secondo me, con l'Africa, e dobbiamo trovare comunque una soluzione. Io ti proponevo, se sei d'accordo, Cruciani, perché non gli mandiamo Parenzo? Dove? Beh, non penso che in uno Africa faccia la differenza. In Africa, ma assolutamente, ma raggiungiamo due obiettivi. Quali non ce sono? Lo mandiamo col barcone, perché il barcone può affondare, capito? Sì. Ce lo mandiamo con una nave di linea, una corsa crociera, così siamo sicuri che arriva giù. Vai, ma scusa, ma chi lo prende? Non lo so, qualcuno se lo prenderà. Così raggiungiamo due obiettivi: ce ne liberiamo e lo lasciamo agli africani. Sicuramente in Africa ci sono meno stronzi, quindi questo è sicuro. Comunque, che ne pensi, Cruciani? No, Walter, adesso Parenzo in Africa addirittura no. Ma cioè... può essere anche un'idea, non c'è andato Veltroni, ci devo andare io, però va bene. Ma ascolta, ti suggerisco anche un paese preciso, il Gabon. Perché il Gabon? Il Gabon. Perché il Gabon? Gabon. Ma perché proprio il Gabon? Ma non lo so, mi è venuto così, potevo dire anche... Vabbè, Walter, prenderemo in considerazione. Michele dalla provincia di Agrigento, vai, Michele. Salve. Dimmi. Io sono stato sindaco nel 2009 a Campobello Delicata e ho trovato via Stalin, via Lenin, via Mao Zedong, piazza Martiri di Modena, piazza Martiri di Tiananmen e tutte queste intestazioni. E ho tolto via Stalin e via Mao Zedong. Bene. C'è stata una polemica fortissima nel mio comune allora, perché i residenti si erano abituati a queste vie e io ho messo via Rosa Balistrera e via Gesualdo Bufalino. Meglio, quindi, sicuramente meglio. Quindi certamente ci sono ancora delle realtà dove le resistenze su queste cose ancora ci sono, quindi bisogna secondo me anche su questo fare una campagna di valutazione su quelle che sono le vie e la toponomastica. Sì, faremo una campagna di valutazione, non c'è dubbio. Riccardo da Udine, vai. Pronto? Sì. Buonasera. Senta, io volevo dirle una cosa sola. Io sono mezzo europeo e mezzo africano, mamma europea e padre africano. Sì. Abbiamo perso il lavoro dal 2010 che siamo in casa per un fallimento. Ho 59 anni, sì. Ho perso la casa, ho perso il lavoro, ho perso tutto, dormo in macchina, arrivano questi signori, sì, al Grand Hotel e tutto. Perché non al Grand Hotel, non sono al Grand Hotel. No, comunque. nel senso, l'hotel da mangiare, da bere, tutto. Perché non li manda ai paesi arabi? Io sono stato, facevo le tante. Non li manda, non è che uno li prende e li manda nei paesi arabi. Vabbè, comunque questo qua sta dicendo: io sono disoccupato, ho 59 anni, dormo in macchina, poi che ha pure figli, che c'ha? Ho due figli, la moglie ha avuto un cancro ultimamente. Pure. Mamma. Cosa devo fare? Parenzo difende loro, perché lui non sa la vita che faccio io. Ma no, non lo sa. Tu sa, non lo perché non sei difendo. Aspetta un attimo, io voglio capire, Riccardo, perché perché cosa ti sei incazzato tu quando senti che questi... Sono incazzato perché vai alla Caritas e dico: ah, abbiamo il prof che non ci possiamo aiutare, ho una validità che ancora mi hanno rimandato a ottobre, perché devono passare 10 anni per prendere, non sono capace di fare niente, parlo 6 lingue, ho fatto tutti i concorsi, sei vecchio, cosa devo fare? Spararmi? Scusa, che Riccardo, che lavoro facevi prima? Io lavoravo all'aeroporto, carico, facevo le pulizie, ho fatto il cameriere, ho fatto l'interprete per le ditte della Brianza in Arabia. No, è 4 volte che dici poverino e basta. Allora? Ma non è una guerra tra poveri, infatti, che si deve fare. Questo ha tutti i diritti di essere aiutato, anzi, deve essere aiutato. Sono andato anche all'INPS a chiedere i miei contributi perché ho detto. Ma in quale comune si trova lei? Io dormo in macchina, sono a Udine. No, ma in quale comune è residente, però? Avevo la residenza, non ce l'ho più. L'ultima sono andato a Forlì a chiedere al comune di aiutarmi. No, non hai più la residenza. Sono andato alla Caritas. No, abbiamo i profughi. cosa devo fare? Però scusami Riccardo, tu, la tua famiglia dov'è adesso? È in Polonia, perché mia moglie è polacca. E che hanno fatto? Sono andati in Polonia da chi? Se n'è andata, ti ha lasciato? No. Grazie a Dio, su quel lato lì io... E non puoi andare in Polonia anche tu? E cosa faccio? Se ho lavorato tutta la vita qua in Italia. Non ho capito, tu sei disoccupato, vivi in macchina? Sì, dormo in macchina. Come fai a chiamare? Col cellulare? Come hai fatto a chiamare? Ho il mio cellulare, tanto è un numero verde vostro e non si paga. No, per sapere, no, certo. Però scusami, Riccardo, fammi capire, tu ti sei arrabbiato quando hai sentito i soldi che danno ai migranti, giusto? Sì, io sono andato anche all'Ips, ho i miei contributi, ho detto rinuncio alla pensione perché mi servono. No, non possiamo farti niente. Abbiamo un fallimento che dal 2010 che va avanti un giudice li condanna, l'altro no. Siamo solo resto del Carlino, se vuoi li mando tutte le email, quello che vuoi. Cosa devo fare? Poi senti loro che arrivano, io capisco l'arabo, e si prendono per il culo. Ah, perché qua si danno tutto. Li trovi, io ho un telefono che chiamo una Nokia vecchia di 10 anni. Loro hanno l'ultimo smartphone. Ma adesso non so se hanno l'ultimo smartphone. Sì, no, le ho viste, guarda. Ma loro chi poi? I profughi, quelli che stanno nei centri di accoglienza? Ma adesso chi? In quale città si trova lei però? A Udine, a Parenzo. Allora bisogna che i servizi sociali di Udine si occupino di lei assolutamente. Ma se ci va, se ci va. Sono andato dove avevo la residenza, non si occupano, hanno detto dove avevo, no, non possiamo aiutarti. Perché? Perché sono degli idioti. Perché hanno detto che ci sono i profughi, giusto Riccardo? Sì, hanno detto che noi abbiamo tanti problemi e non possiamo aiutare. Va bene, allora fai così, lasciami il numero di Riccardo, domani voglio chiedere, ti assicuro, lasciami il numero di Riccardo di cellulare, io domani voglio provare a occuparmi di questo signore. No, ma tu ti puoi occupare? Può chiamare, senta, lei può chiamare la stessa sale, la signora Monti, che ho parlato con lei di Forlì. L'ho detto, guarda. Ma no, adesso io domani chiamo il comune di Udine. No, aspetta. Non c'entra Udine. Aspetta, tu sei c'entra. Residente a Forlì, giusto? Avevo la residenza a Forlì. Avevi la residenza a Forlì. Dove adesso, perché stai a Udine? Esatto. Perché sto cercando qualsiasi lavoro al mare, qualsiasi cosa. Poi quanto dormi in macchina ti sposti. Sì, ma i soldi, i pochi soldi, immagino qualche cosa mangi, no? La benzina, la macchina, il cibo durante il giorno. Quanto c'hai in banca? Quanto ti è rimasto? Non ho niente, sono sotto dei 17 euro alla posta. Come fai a girare in macchina per l'Italia? Spiegami. Giro perché chiedo qualche lavoretto, qualcosa, qualche prete che mi conoscono, sanno la mia situazione, mi danno una mano. Vabbè, comunque. Non sto dicendo che stai mentendo. No, io lo posso dare anche al nome del nostro avvocato. Vabbè, ma quello dell'azienda che è fallita, ho capito. Però non io... è quello, è la rabbia mia, perché mando il mio curriculum, io so usare il computer, parlo 6 lingue e tutto, ho fatto il cameriere, ho fatto il barista, ho fatto il rappresentante. Ah, sei vecchio, mi dispiace, sei in gamba e tutto, ma sei vecchio. La spalla rotta, sto aspettando che passano 10 anni, l'INA mi ha detto no, solo da ottobre possiamo farti la revisione. Però poi hai sentito che danno 35 euro al giorno agli immigrati e ti sei incazzato. Ma anch'io adesso strappo il mio passaporto che è europeo e faccio il coso. Cosa posso fare? Fai il migrante, diciamo, fai il profugo. Ma cosa posso fare? Vabbè Riccardo, vediamo di rimediare a questa situazione. Grazie, ciao Riccardo, ciao. Grazie, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Arrivederci. Ivano da Milano, Ivano. Buonasera. Una osservazione rispetto alle idee di Parenzo. Stavo pensando che 35 per un mese fa 1050 e che i nostri pensionati prendono molto di meno e che ci pagano anche le tasse. La conseguenza su questa cosa è che io sono d'accordo con la solidarietà, aiutare chi ha bisogno, però non vedo come possiamo aiutare tutti quelli che arrivano, sono d'accordo anche che la fame non la fermi con neanche con i carri armati, ma non puoi aiutare tutti se addirittura non ne hai per quelli che sono i tuoi. Il problema vero qua è dare quello che possiamo, ma se, visto che l'Europa se ne sbatte altamente le scatole, poi ci danno le sanzioni, ci mandano le navi, c'è solo un po' ci sanzionano perché poi non riusciamo a ospitarli. Allora il problema qual è? Quello dei droni andare a bombardare gli scafi ha naturalmente una sua valenza, nel senso di non ti do i mezzi per portarli qua. No, ma il punto, guarda, questa roba qui che si può fare, ovviamente tutto diventa complicato quando si tratta di Europa, di Italia, l'extraterritorialità, la Libia, certo, i mezzi. In Italia tutto è complicato, cioè diventa tutto complicato. Renzi, diciamo, l'ha fatta più facile del previsto, andiamo, distruggiamo i barconi, eccetera, eccetera. Alla fine ci hanno dato qualche aiuto di navi, eccetera, e tutto resterà come prima. Grazie, Fabio da Udine, vai Fabio. Sì, Cruciani, ciao, volevo dirti una cosa, per me domani non è festa, per me domani è il lutto domani. Io domani prendo la svastica, me la metto sul petto e cammino per strada. Vabbè, ma tu sei non un cretino, ma tu sei, vabbè, tu sei un cretino. Mi dice dove cammina no, per strada. No, io non sono responsabile di quello che dico. Questo nazista del terzo millennio, mi dice che dove cos'è cammina. Che vuoi fare domani, vuoi prendere una svastica e... Me la metto sul petto e vado per strada. Te la devi mettere, te la devi se mettere, noi eravamo ancora sotto il dominio dei ti do tedeschi, un consiglio a questo punto, ti do un consiglio lì. La svastica mettitela nel culo. Eravamo a questo punto se c'era Mussolini, nella merda non ci trovavamo, nella merda, e perché se avete il cazzo degli americani a liberarci, vabbè, ci sono padroniti, adesso arriva l'ambulanza, adesso siamo schiavi degli americani, vabbè, no, adesso invece io a quest'ora sarei nato dalle palle di un tedesco. Vabbè Fabio, non ti preoccupare, fra poco arriva uno, arriva uno, è tanto tempo che non chiamiamo l'ambulanza, terminiamo in eccola qua terminiamo in reduce. Sì. Duce! Vergognati! Duce! Vergogna, aspetta che arriva, aspetta. Sì. Fermo lì, Duce! Fermo, mi dai l'indirizzo esatto, Fabio, dove sei? Dove sei? Ascolti, voglio dire una cosa, cioè, Fabio, cioè, guarda che potresti essere denunciato per le minchiate che hai detto adesso. Potresti essere denunciato. Adesso arriva l'ambulanza. Ci sono due signori in bianco. Ti prendono, ti mettono su una lettiga, infilano dentro e nel dubbio ti danno anche due calci. Dai, Fabio, dopo quello che hai detto, veramente meriteresti no una, tre ambulanze e essere ricoverato per un po' di tempo, capito? Ti sei messo a urlare slogan nazisti e fascisti. Sei un cretino, sei un imbecille. Basta, devo chiudere. Ciao, sei un imbecille. Ciao, ci sentiamo lunedì. Ciao, vi bacio a tutte e due, andate a fare in culo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30. Lo so, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.